È un tema che va avanti da tempo, va avanti sicuramente dal 2012, è entrato in vigore del decreto Salva Italia, quindi il governo Monti, con la totale liberalizzazione degli orari, degli esercizi commerciali, orari e non solo orari, perché parliamo anche di altro e non solo di orari. Questo significa che esercizi commerciali possono stare aperti 365 giorni all'anno, 24 ore su 24. Noi siamo sempre stati contrari a questa condizione, a questa situazione assolutamente priva di regole, per diversi motivi. Intanto perché comunque mette nelle condizioni lavoratrici e lavoratori di questo settore di essere fortemente in difficoltà proprio per una totale assenza di regole. Riteniamo anche che non sia assolutamente utile. A distanza di 7 anni possiamo fare delle valutazioni. Non ci sono stati miglioramenti nei fatturati, non ci sono stati incrementi di posto di lavoro e noi crediamo che oggi sia assolutamente necessario cominciare a pensare e valutare di fare un passo indietro rispetto a questa condizione. Un passo indietro l'aveva promesso questo governo, in particolare il Movimento 5 Stelle, sul tema degli orari degli esercizi commerciali aveva detto di voler intervenire, però per il momento non si vedono interventi. Non si vedono interventi, sì, l'ha promesso questo governo, ma c'era già un disegno nella legislatura precedente, un disegno di legge per intervenire comunque e riportare delle regole. Noi chiediamo e sosteniamo con forza, tant'è che abbiamo anche chiesto unitariamente a livello nazionale un incontro al Ministro dello Sviluppo Economico proprio per ribadire la nostra posizione, riportare delle regole, cioè riportare delle regole significa dare delle garanzie ed evitare anche una forma di concorrenza sleale, se vogliamo, fra grandi attività commerciali, quindi grandi centri commerciali e piccolo e medio commercio, che sicuramente non può sostenere la concorrenza di grandi strutture che sono queste sì in grado di tenere aperti 365 giorni all'anno. Quindi noi chiediamo che comunque ci sia la disponibilità e la volontà di affrontare questa questione. Però è chiaro che non basta fare della propaganda, però bisogna intervenire e farlo seriamente. Il ministro aveva parlato di 12 giorni di aperture nei festivi, è un tetto che a voi potrebbe andare bene? Ma l'ideale per noi sarebbe ritornare ad una forma analoga a quella precedente, ovvero al decreto Bersani. Il decreto Bersani cosa diceva nel 98? Diceva 8 domeniche all'anno o festivi di apertura oltre al mese di dicembre o maggiori periodi nelle città d'arte o nelle città ad economia prevalentemente turistica. Il fatto però che questi calendari venivano determinati dai sindaci, quindi dalle amministrazioni locali, per cui a seguito di confronti fatti con le parti sociali, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria e associazioni dei consumatori. Questo è quello principalmente che serve e che conta. Come dicevo prima e ribadisco, regole però che debbono essere condivise, discusse sul territorio. Cioè la legislazione del commercio oggi priva di questa possibilità, ovvero di determinare dei calendari che possono essere utili a seconda di quello che sono le esigenze di un territorio, che sicuramente sono diverse da città a città, da luogo a luogo. Non possiamo pensare che Parma sia uguale a Rimini in estate, le esigenze di Rimini in estate sono diverse da quelle di Parma, per fare due esempi a caso. Riportare la discussione sui territori è per noi la situazione principale. 12 sono poche, sono molte, detto così dice niente, dice poco, bisogna discutere sui territori. Prima dicevi che i fatturati non sono aumentati sensibilmente, per quanto riguarda i posti di lavoro invece? Ma posti di lavoro, là dove sono state fatte poche, pochissime assunzioni, sono assunzioni brevi, sono assunzioni per weekend di fine settimana, quindi per andare a rafforzare il venerdì, sabato e la domenica, quindi part time bassi, retribuzioni basse, i fatturati non sono aumentati, i fatturati si sono spostati dal venerdì alla domenica, rimanendo il sabato il giorno principale dal punto di vista commerciale, la domenica diventi il secondo giorno, ma diventi il secondo giorno perché si sono spostati lì in quell'occasione i consumi che venivano fatti per il resto della settimana, non ha portato vantaggi. Lo dimostra il fatto che un contratto collettivo nazionale del settore della grande distribuzione è scaduto da 5 anni e non siamo ancora riusciti a rinnovarlo. Se le condizioni fossero state migliorate e se il decreto Salva Italia avesse portato dei miglioramenti, oggi non saremmo qui a 5 anni di distanza a cercare ancora di rinnovare un contratto proprio in quel settore lì che aveva chiesto le liberalizzazioni. i fautori, i sostenitori delle liberalizzazioni hanno fatto leva spesso sui consumatori, sui cittadini, dicendo che le aperture così selvagge offrono un servizio in più. Su questo cosa rispondete? Ma offrono un servizio in più, ma serve questo servizio in più? Serve tenere aperti dei negozi fino a mezzanotte o anche magari tutta la notte? Serve avere sempre le domeniche aperte? Io più che di servizi in più ragionerei e discuterei di cambio di modello dei consumi, non cambia, non è un servizio in più. Poi servizio si può anche ragionare, si può anche discutere, tornando a quello che dicevo prima, facendo una programmazione sul territorio, prevedendo anche magari delle aperture alternate in alcune domeniche dell'anno a seconda delle zone e quindi poter anche lì sì dare un servizio, ma un servizio di altro tipo fatto in un altro modo.